La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori, 16:30 primi e quasi 31 primi in realtà, qui in diretta di Studio Milano della Radio 24. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @24.it e vi invita a telefonare all'800 24 0024 o a darmi la vostra opinione al 349 238 6666. L'argomento della puntata è fisco. Io dirò qualche parola intanto sulle novità economiche della giornata e poi vi rimando per questo a Sebastiano Barisoni a Focus Economia, però vi dico subito che vi chiedo un'opinione, poi avremo un ospite e vi spiegherò cosa penso di questa opinione, e l'opinione che vi chiedo è sulle parole pronunciate stamattina dal direttore / direttrice, a seconda che voi vogliate usare femminile, dell'Agenzia delle Entrate Orlandi. Ecco, vediamo di ascoltarle per sapere da voi poi se voi considerate queste parole appropriate da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate, oppure se c'è qualche cosa che non vi torna. Ascoltiamola. C'è un solo neo che intendo rimarcare, così che non si dica che tutto va bene. Non è così. Prendiamo il dato sulle comunicazioni clienti-fornitori, cosiddetto spessometro. Solo una parte molto limitata ha risposto alla richiesta. Al netto di eventuali errori e quello che può essere, io ricredo che in questo caso noi dovremo cambiare per questi naturalmente approccio, quindi coloro che non hanno risposto all'approccio collaborativo conosceranno, permettetemi una battuta, il lato oscuro dell'accertamento e quindi avranno il controllo da parte nostra per essere indotti questa volta con altri metodi alla compliance. Allora, le parole sono chiare, cioè rivolgendosi ai contribuenti italiani, il direttore dell'Agenzia delle Entrate dice: chi non risponde al nostro approccio, che viene unilateralmente da loro definito cooperativo e collaborativo, proverà il lato oscuro della forza. Allora, al netto del fatto che mi sembra una citazione cinematografica, io voglio capire se pensate che i rapporti attuali che sperimentate come contribuenti, siate persone fisiche o siate persone giuridiche, davvero rendano giusto, equilibrato, accettabile, per così dire, potete pensarla come volete, ma accettabile un giudizio rigoroso, equilibrato e accettabile da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate, un giudizio simile dei contribuenti italiani. Io mi auguro e mi aspetto che ci siano molti a favore tra voi, perché così almeno ho la certezza che sbaglio io. Io invece quando sento parole simili faccio un sussulto, innanzitutto perché non credo affatto che il ruolo, sto parlando di un funzionario apicale che di cui mi è chiara l'importanza, di cui stimo la buona fede, la competenza, eccetera, eccetera. Però io credo che queste non sono parole che devono venire da comunque quello che resta un vertice amministrativo e non politico nei confronti dei contribuenti. La mia opinione è che l'Agenzia delle Entrate, come Equitalia, tutto l'apparato tributario, come le agenzie tributarie, dovrebbe essere ispirato a un totale rispetto del contribuente. Poi fanno quello che la legge chiede loro di fare, ma non accetto, considero inaccettabile le pagelle etiche che vengono regolarmente messe come oggi, tanto più quando poi vengono accompagnate dicendo vi mettiamo a posto noi, sappiamo come fare. Cioè sento un tono di minaccia che non rende, perdonatemi, né giustizia ai milioni di contribuenti onesti che ci sono, e perdonate, non solo tra i lavoratori dipendenti che sono coatti perché hanno sostituto l'imposta, anche tra gente che non sa più dove sbattere la testa per risultare congruo con i suoi settori, eccetera eccetera. E soprattutto che non c'entra la questione, perché la questione che vivono nel sistema fiscale tributario italiano milioni di italiani è quello di non riuscire ad avere una compliance nella foresta di norme e di circolari, perché è quella la vera fonte del diritto tributario italiano, che ogni settimana si sommano per capire come diavolo si fa a ottemperare all'obbligo fiscale senza incorrere in contestazioni, sanzioni, interessi di mora, titoli esecutivi di riscossione da parte dello Stato e così via. E da questo punto di vista mi riservo di leggervi l'estratto di un'ordinanza del Tribunale di Cagliari uscita proprio pochi giorni fa a conferma di quello che io penso. Magari mi sbaglio, però voi telefonate e ditemi se pensate che invece le parole della dottoressa Orlandi sono corrette. Allora, qualche osservazione sui dati di giornata prima di andare all'ospite e che io vi parli di questa sentenza tributaria che secondo me fa a pugni con quello che ha appena detto la dottoressa Orlandi. Due grandi set di dati di oggi. Innanzitutto una cosa che mi fa venire i brividi, che non riguarda i dati italiani. Oggi è il primo giorno nella storia addirittura che un paese del G7, cioè il Giappone, emette un titolo pubblico decennale a rendimento negativo. Questa cosa a molti di voi dice: che cos'è sta roba? È impressionante che ci siano rendimenti negativi nei decennali dei paesi del G7. Io spero che questo faccia molto riflettere la BCE e a tornare indietro dai suoi tassi negativi che i keynesiani hanno prima annunciato come una cosa fondamentale, che non servono né a rialzare l'inflazione né a far tornare la liquidità dalla pancia delle banche, invece che nei depositi della BCE, agli impieghi, a imprese e famiglie. Si distrugge ulteriormente la base per creare utili nelle imprese bancarie, non ci sono affatto più crediti, serve solo a far pagare meno gli interessi del debito pubblico statale. Voi potreste dire: beh, ma i danni sopravvenienti sono maggiori del bene che viene al bilancio pubblico, perché, ripeto, non avere un orizzonte di tassi su cui poter fare i conti sul ritorno agli investimenti è la peggior cosa che si possa avere se vogliamo tornare a investimenti, perché chiunque voglia investire deve avere una scala temporale su cui misurare un ritorno del suo investimento. Non si può vivere in un mondo in cui i decennali abbiano interesse negativo. Ma due grandi set di dati oggi, lascio poi i commenti a Sebastiano Barisoni. Il primo è quello su l'Istat ha diramato la stima del PIL 2015 più 0,8%. Immediatamente Renzi, il governo, ha detto: avete visto, come dicevamo noi, e la pressione fiscale non è come l'Istat ci aveva detto al 43,7%, quindi in ascesa sul 43,6% del 2014, ma scende al 43,3%, quindi il governo da questo punto di vista dice: abbiamo ragione, benissimo. Faccio notare a tutti che le quattro serie trimestrali 2015 che avevamo già dell'Istat inglobavano, era l'Istat a dirci, un più 0,6%. Qui non si tratta di impiccarsi su un più 0,1-2% in più o in meno, ma di capire l'Istat come lavora, perché ha rilasciato questo dato prima che noi abbiamo la stima del quarto trimestre, che avevamo già, ma era la preliminare, non abbiamo ancora la definitiva. Quindi come si dallo 0,6 si arrivi al 0,8 vedremo nei nuovi dati. Una cosa è sicura però, l'Istat, lo trovate nel comunicato sul sito dell'Istat, alza rispetto alla stima preventiva il PIL del 2015, ci aveva detto 0,7, arriva da 0,8 e soprattutto diminuisce la pressione fiscale, perché avvia nel frattempo, e non era una cosa dovuta secondo regole europee, una revisione retrospettiva delle serie storiche dal 1995 al 2012, tale per cui l'effetto sul 2013 e 2014 è una riduzione delle stime precedenti del PIL, ed ecco che quindi è più facile avere un segno più. Allora, io non dico nulla, aspetto anch'io come altri la stima definitiva del quarto trimestre, vedremo, ma se si tratta di un trucchetto di questo genere, mio Dio, ecco, è meglio farne a meno, anche se poi si tratta di accontentare il governo. Non è uno 0,1 in più o meno far la differenza. Seconda serie di dati, quelli sull'occupazione, sempre l'Istat, gennaio 2016 sul gennaio 2015, qui ci sarebbe molto molto da riflettere. Positivo gennaio su dicembre, perché ci sono 70.000 occupati in più, è un probabile effetto della decontribuzione di dicembre, che finiva a dicembre, registrato con le assunzioni che partivano da gennaio, e quindi bene. Se andiamo a vedere il tasso di disoccupazione, oimè, quello cala in tutta Europa, quasi dovunque più significativamente che da noi, tranne che ovviamente Grecia e così via. Da noi resta inchiodato all'11,5%. Soprattutto cresce il tasso di disoccupazione giovanile, e questo riguarda tutto l'anno, nel senso che cresce al 39,3%. Cosa vuol dire? Che la decontribuzione massiccia alle imprese non ha aiutato i giovani. Infatti, se andiamo a vedere il dato dell'aumento degli occupati permanenti durante il 2015, quindi gennaio 2016 sul 2015, abbiamo 426.000 occupati permanenti in più. Ci sono revisioni di questo dato, non è ancora il definitivo, però è un ottimo dato. Ma che cosa capita su questo dato? Che è praticamente quasi tutto concentrato negli over cinquantenni. Gli occupati 15-24 anni calano ancora di 31.000 unità a gennaio, aumentano di pochissimo nell'arco di un anno, di 16.000 unità, mentre nell'arco di un anno perdono addirittura 117.000 occupati la classe d'età tra i 35 e i 49 anni. Ecco, io mi fermo qua solo per dire che come si vede quindi è, gli occupati in più si devono più alla riforma Fornero, che mi dispiace dirlo, è il Jobs Act a cui sono stato comunque positivo nel giudizio, e i miliardi spesi in decontribuzione vanno soprattutto agli over 50 anni, perché l'effetto di occupati aggiuntivi in più riguarda praticamente solo loro. Poi pensatene cosa volete, ma intanto questi dati della giornata per gli approfondimenti con Sebastiano Barisoni a Focus Economia. Allora, intanto presentiamo il nostro ospite per sentire anche la sua opinione sulle parole dell'Orlandi che abbiamo sentito all'inizio di trasmissione. Abbiamo con noi il professor Dario Stevanato, che insegna diritto tributario all'Università di Trieste. Grazie di essere con noi, professore. Grazie a lei, buonasera. Che dice lei? Secondo lei è corretto, è un giudizio equilibrato? Vabbè, al netto della battuta, sì, effettivamente... forse non è un'uscita felicissima, mi ricordo un po' quella che pochi mesi fa la stessa Orlandi ebbe riguardo al tema dei dirigenti illegittimi, se ben ricordo definì chi aveva fatto ricorso contro gli atti da quei dirigenti firmati come dei ricorsi vergognosi di cui ci si sarebbe dovuti vergognare. Oggi di nuovo abbiamo un tono sì, probabilmente fuori luogo in questa conferenza stampa. Comunque io poi ho sentito la registrazione, ho visto prima anche il video. La Orlandi si riferiva specificamente al tema clienti fornitori. Esatto, che effettivamente è uno strumento importante di controllo incrociato, no? come abbiamo nel rapporto sostituto sostituiti le ritenute fatte e poi i redditi dichiarati, quindi se qualcosa non torna, è facile risalire a diciamo una discrepanza. Anche qui evidentemente ci sono risultano all'agenzia delle incongruenze tra quello che dichiara il cliente rispetto al proprio fornitore, quindi di aver ricevuto una prestazione o un bene, e il fornitore che evidentemente nella propria dichiarazione ridichiara diversamente. Ricordiamo a chi è in ascolto che su questa storia del registro clienti fornitori c'è stato un bel va e vieni negli anni, obbligo che c'era, poi è stato cassato, poi è stato reintrodotto, poi è stato modificato e così via. Io vorrei sottoporre al nostro ospite, il professor Stevanato, e naturalmente anche l'opinione vostra che ci ascoltate, gli estremi, una sentenza che mi ha mandato un amico commercialista sardo e che mi ha fatto venire uno sbocco di bile. Si tratta di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Cagliari, in particolare dal dottor Stefano Greco, del 10 febbraio del 2016. Che cosa dice questa ordinanza? Si trattava di un caso, di un ricorrente, che contestava un pignoramento, quindi un titolo esecutivo pervenuto di Dea Equitalia, visto che la notifica, l'avviso non gli era mai stato notificato, e il Tribunale di Cagliari invece dice che ciò malgrado il contribuente ricorrente ha torto. Perché? Allora, questo pignoramento di Equitalia avveniva nelle forme ordinarie, ossia con un'udienza davanti al giudice dell'esecuzione. Però che cosa fa Equitalia? A sostegno della sua richiesta, la sua pretesa, non produce una cartella. E infatti il ricorrente diceva non me l'avete inviata, non me l'avete notificata, ma produce l'estratto di un ruolo autenticato da se stesso, cioè produce delle fotocopie dell'iscrizione a ruolo della richiesta dell'Agenzia delle Entrate, diventata poi il titolo esecutivo e quindi pignoramento di Equitalia, e questa la messa a ruolo autenticata da se stessa, appunto da Equitalia. Allora il contribuente a quel punto si oppone. Dice, ma come, io non ho ricevuto nessuna notifica delle cartelle di pagamento, anzi molte di queste sommate poi arrivano al pignoramento risultano prescritte, non sono ricevute e quindi non ho potuto onorarle, ma sono prescritte. A questo punto Equitalia insiste e quindi col suo deposito di fotocopie. Ora... siccome le fotocopie non servono a provare l'avvenuta esatta notifica e il deposito alla casa comunale del riscontro della notifica, a quel punto il contribuente, chi lo assiste, è convinto di avere ragione in giudizio. Perché, secondo plurime sentenze della Cassazione, io ho qui tutto l'elenco ma non vi voglio annoiare, e della giurisprudenza di merito, Equitalia è sempre tenuta ad esibire, a conferma che di aver rispettato la sequenza del procedimento precedente all'esecuzione formata, ma è sempre tenuta a esibire la ricevuta di ritorno della raccomandata, con la quale ha notificato la cartella di pagamento oppure la relata di notifica, la copia della cartella di pagamento, perché solo così il concessionario può provare, ove ci sia un contenzioso in giudizio, può provare sia il contenuto a cui la notifica, la cartella è relativa, sia la notifica della cartella stessa. E ripeto, c'è una sfilza di sentenze di Cassazione da questo punto di vista. Quindi a quel punto deve depositare in giudizio le cartelle e le relative relate di notifica. Questo dicono, ripeto, molte sentenze di Cassazione. Invece il giudice greco che cosa dice? Dice in sintesi che contro le cartelle mai notificate non è mai possibile sollevare un'opposizione sul merito del tributo, punto numero uno. Punto numero due, l'unica opposizione possibile contro cartelle mai notificate deve essere sollevata, scrive testualmente, entro 20 giorni dalla notifica. Ma se la notifica non è avvenuta, come si fa a rispettare questo termine? E dopodiché conclude, l'unica opposizione possibile contro le cartelle per imposte sui redditi è solo sulla pignorabilità dei beni, perché sapete che sono intervenute nel tempo modifiche sulla pignorabilità o meno dei beni, quando anche sia fondato il titolo esecutivo e quindi la pretesa fiscale di cui il titolo esecutivo è l'attuazione. Solo nel caso in cui ci sia un'impignoribilità, perché rientra in quella categoria di beni su cui sono stati posti dei vincoli in questi anni di crisi, altrimenti tutti gli altri vizi di forma della pretesa fiscale dello Stato si sanano automaticamente. Questo è quello che ha deciso, ripeto, ordinanza Stefano Greco, Tribunale di Cagliari. Allora, io mi domando se di fronte a decisioni giudiziali di questo tipo è fondato poter dire ai contribuenti italiani: siete voi che non cooperate con l'apparato tributario dello Stato, oppure se, come penso io, e magari mi sbaglio, adesso il professor Stevanato mi corregge, mi tira le orecchie, noi continuiamo a essere troppe volte trattati come dei sudditi. La risposta del professor Stevanato tra un minuto. La versione di Oscar. Allora, tornati in diretta, abbiamo preso spunto dalle parole del direttore di Agentrata, Orlandi, che ha detto ai contribuenti che non cooperano faremo conoscere il lato oscuro della forza dell'Agenzia delle Entrate. Io ho citato gli estremi di una recentissima ordinanza del Tribunale di Cagliari che dice Equitalia può non notificare anche niente, la sua pretesa resta fondata e, caro contribuente, puoi solo eccepire sull'impignorabilità del bene, ma per tutto il resto, tutti i vizi di forma io li considero sanati. Che dice il professor Stevanato di decisioni giudiziali di questo tipo? Che effettivamente non torna, perché è vero che riguardo agli atti esecutivi, diciamo alla fondatezza dell'esecuzione che porta avanti l'amministrazione finanziaria, ci sono dei limiti che sono quelli che ricordati nella sentenza, ma questi limiti esistono proprio perché tutta la contestazione del contribuente si può concentrare contro il ruolo e la cartella davanti alle commissioni tributarie, quindi c'è una fase che viene svolta davanti al giudice tributario che surroga quella che normalmente nel processo civile invece sono contestazioni che si fanno all'esecuzione, alla fondatezza dell'esecuzione, certo, e agli atti esecutivi. Qui però è mancato il primo corno della questione, cioè non essendoci a quanto pare una cartella notificata, il contribuente non ha potuto contestare il merito della pretesa nella sede. Ma non è neanche stata prodotta da Equitalia alcuni ci possono provare e dire non mi è stata notificata. No, non la produce Equitalia in giudizio. Esatto, non la prodotta Equitalia. Io non so se nel caso di specie il contribuente aveva provato a rivolgersi anche al giudice tributario l'atto di pignoramento nel quale far valere la mancata notifica dell'atto presupposto, perché questa era un'azione assolutamente da compiere. Probabilmente il giudice civile qui non era proprio agio con la materia e ha messo una sentenza che francamente non sta in piedi, cioè non sta in piedi. Poi c'è un ragionamento circolare per cui dice esatto, non puoi contestare il merito di una cartella, però devi impugnare una cartella non notificata entro un certo termine della come nel libro comma 22. E no? Comma 22. Chiede, esatto, siamo lì. No, se posso dire una cosa sulla frase dell'Orlandi. Io però non mi stupirei al posto dell'Orlandi di quello che è successo. Cioè, adesso, al di là, al netto degli errori che possono esserci di questi incroci tra elenchi clienti e fornitori, può pure essere che di fronte a lettere, come dire, bonarie in cui si invita il contribuente a mettersi in regola, il contribuente intanto voglia vedere se l'agenzia fa sul serio, quindi l'aspetta su un terreno più di atti formali. E poi non va trascurato che col nuovo ravvedimento operoso è possibile ravvedersi anche dopo che i controlli sono già iniziati, sono iniziati, quindi non mi sorprendo che i contribuenti in fondo no. No, ma quello che io mi aspetterei dal direttore dell'agenzia, proprio alla luce di quello che lei ha appena ricordato, professore, cioè che il ravvedimento operoso può avvenire anche dopo, e questa norma è stata introdotta in ordinamento sapendo che c'è gente che è corta di cassa e che può farsi certo, questo conto, certo. Io penso che a quel punto il direttore dovrebbe mettere in conto che esiste gente che non lo fa perché è nel DNA un delinquente fiscale, ma perché è a corto di cassa, altrimenti certo, l'ordinamento non l'avrebbe prevista questa possibilità, e invece si morde indiscriminatamente contro tutti, cosa che secondo me è molto molto poco onorevole. Stiamo come la pensa qualcuno dei nostri ascoltatori. Antonella da Latina, prego Antonella. Salve, buonasera, non so se mi sente bene. Sì. Ah, benissimo. Guardi, io parlo perché ho proprio... Come non detto, perché la voce va e viene. Guardi, proviamo a richiamarla al volo perché non si sente nulla. La richiamiamo immediatamente, quindi poi la faccio intervenire. Sentiamo Alessandro da Milano. Alessandro. Buonasera, io voglio fare un intervento stupendomi un po' come un'uscita di del direttore dell'agenzia e che presuppone un po' un ribaltamento del sano rapporto tra cittadino e autorità. Ma ripensandoci bene, cioè, credo ci sia la possibilità che loro siano il lato oscuro della porta. Perché se guardiamo bene per intero il processo, noi abbiamo spesa pubblica altissima, sprechi pubblici a iosa, tasse altissime, complicate da capire, assurde come il canone RAI, difficili da pagare. Adesso arriva, conseguente, la minaccia, il pugno duro della riscossione. Quindi lei non solo dice, no, lei ci ha detto la verità, dice Orlandi. Vabbè, ho capito il senso, in effetti io mi rifiuterei di vederla un po' così. Io credo che non abbia misurato molto bene, però, ripeto, tanta gente, io credo che sono convinto che sia anche d'accordo. Ritorniamo da Antonella, da Latina, vediamo se eccomi si sente qua. Meglio. Eccoci. Eccomi qua, non so se mi sente sì, bene adesso. Sì, adesso pare di sì. Ok, perfetto. Io dicevo, faccio parte di quella categoria dei mariti con la libera professione e quindi puoi immaginare in che situazione ci troviamo, cioè massacrati dall'Agenzia delle Entrate, da Equitalia, da tutti, ce ne metta di tutti di più. Mm. Cioè non è possibile che un giro vorticoso di questo genere si ripercuote soltanto su quelle persone che veramente lavorano. Quindi insomma, a lei il tono della Orlandi non è piaciuto troppo, diciamo. Assolutamente, così. Ma sta scherzando, ma assolutamente. Io dico, ma come si fa a pensare che si può massacrare ancora il cittadino italiano che paga le tasse e lasciare in giro gente che non le paga per niente, non le pagherà mai? Allora, non su questo, Antonella, modo. Le do subito una cifra, perché naturalmente oggi abbiamo anche la cifra ufficiale, era nell'ambito di una manifestazione in cui si vantava giustamente il fatto che si è, la cifra del 2015 che si dichiara come recuperata dagli evasori è di 14,9 miliardi, naturalmente di questi 14,9 miliardi un terzo, poco meno di un terzo della verità, viene da imponibile sconosciuto totalmente allo Stato, il resto è contenzioso da anni, incassato, ma di gente i cui redditi e la cui esistenza lo Stato conosce benissimo. Io già anche su questo criterio statistico ho molto da ridire, perché penso che non si possa presentare i due terzi di un incasso che non deriva dall'accertamento di imponibili sconosciuti come se fosse lotta all'evasione, ma questo è naturalmente il fatto che io spacco sempre il capello in quattro. Marco, dalla provincia di Milano, come la pensa? Buongiorno signor Giannino, io la penso quasi sempre come lei tranne questa volta. Infatti, bene. Io penso che, anzi, le porto la mia opinione, io conosco molta gente libera professionista che evade sempre le tasse e la sua scusa è che ci sono troppe tasse e quindi è giusto non pagarle tutte, si fattura di meno per pagare meno tasse, però magari fanno il leasing con il macchinone, hanno la villa e cose varie, quindi io penso che queste persone vengano prese e gli sia fatto pagare tutto quello che devono pagare. Le tasse sono alte, ma le tasse sono alte anche per me che sono operaio. Per carità, sono alti per tutti. No, su questo ha perfettamente ragione. Io le tasse le pago, come diceva il primo ascoltatore, anch'io pago il canone RAI, pago le tasse dei rifiuti, non c'è dubbio. Pago l'IMU, e quindi io trovo ingiusto che ci sono certe persone Il discorso che fa lei va bene per chi è onesto fiscalmente e viene vessato da certi atteggiamenti dalle agenzie delle entrate, ma ecco, c'è molta gente anche che però queste tasse non le paga e fa la bella vita. Io mi faccio un mazzo tanto per andare alla fine del mese, queste persone fanno il bello e cattivo tempo con le tasse che devono pagare e fanno la bella vita. Marco, la mia unica risposta è che io le do ragione, però questi giudizi generalizzati mettono insieme gli onesti e i non onesti, e io credo che ci sia una strategia dietro, quella di metterci gli uni contro gli altri, capisce? Perché poi quando ci sono decisioni come questa ordinanza del giudice di Cagliari che arrivano e che è uno schiaffo in faccia alla ragionevolezza oltre che al diritto di chi ricorreva, lì invece che dividerci dovremmo essere uniti. Però io sono contento che ci abbia telefonato Marco, perché so che tantissimi la pensano come lui. Non facciamoci dividere, grazie al professor Stevanato, continuate su Radio 24, appuntamento all'8:15 ogni mattina con Alessandro Milan, ad attenti a noi due.